2024 di Enrico Pagliarini. Anche questa settimana abbiamo condensato nella nostra puntata alcuni dei temi più importanti della settimana. Sarà con noi in questa puntata anche l'amministratore delegato di HP Italy. Sapete che da circa un anno, o se non lo sapete lo scoprite in questa puntata, esistono due HP, perché una delle aziende IT più famose al mondo si è divisa in due anime: la forse più nota HP, che vende stampanti, computer, HP Italy, e un'altra società che si chiama Hewlett Packard Enterprise, che si occupa invece di soluzioni per le aziende. E come sempre iniziamo la nostra puntata con alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dagli Stati Uniti. Sarcos Robotics, che è una società americana specializzata nella progettazione e costruzione di esoscheletri, ha ricevuto nuovi finanziamenti per 10,5 milioni di dollari. Beh, fin qui uno potrebbe dire, beh, sono sicuramente un sacco di soldi, ma viste le dimensioni del venture capital americano non sono tantissimi. Però la notizia è che tra i principali investitori c'è la Microsoft, e quindi alcuni hanno detto questa settimana Microsoft comincia ad investire nei robot. Sarcos progetta robot, ma anche esoscheletri, sia per i militari che per l'industria. Allora, questi sistemi applicati all'uomo aiutano una persona a correre più forte, ad esempio, o a sollevare pesi umanamente impossibili da sollevare, o per fare meno fatica, ad esempio. Gli esoscheletri, tra l'altro, sono interessanti anche per i disabili. Ci saranno prospettive molto interessanti anche per i disabili. Digital News. Ancora più interessante quello che accade alla Carbon. È una startup nel settore della stampa 3D che ha ricevuto nuovi finanziamenti per 81 milioni di dollari. Allora, ci sono tra i finanziatori General Electric, BMW, Nikon e un'altra industria giapponese, la JSR, che è proprio una industria manifatturiera. Carbon aveva già ricevuto 100 milioni da Google Ventures nell'agosto 2015 e il totale dei fondi raccolti sale così a 220 milioni. Il processo produttivo di Carbon interessa le aziende perché è molto innovativo e molto sofisticato, quindi non è la classica stampante 3D, usa una resina particolare che prende forma grazie alla luce e all'ossigeno. Il costo di queste macchine è di 40.000 dollari per un minimo di 3 anni, cioè te la danno con una specie di leasing. Digital News. Da lunedì Twitter eliminerà dal conteggio dei caratteri link, foto e altri file multimediali, quindi i famosi 140 caratteri potranno essere usati per intero, mentre oggi sapete che un link o una fotografia rubano spazio. Da mesi c'è un dibattito dentro e fuori all'azienda se eliminare il limite dei 140 caratteri, che però ovviamente snaturerebbe il servizio. Digital News. Il mercato della musica in streaming cresce, ma sapete che deve ancora trovare un proprio equilibrio economico. In ogni caso, Spotify ha annunciato questa settimana di aver raggiunto i 40 milioni di utenti che pagano un abbonamento mensile, poi ci sono anche quelli che usano la versione gratuita. Apple Music, che è il secondo player del settore, ha 17 milioni di utenti. Va detto che Apple con Apple Music non fa mai delle promozioni, mentre Spotify durante quest'estate ha fatto parecchie promozioni, quindi vedremo se questo aumento del numero di abbonati è dovuto alle promozioni. Un'ultima notizia riguarda la pubblicità online. Adblock Plus, che è un software piuttosto famoso per bloccare o filtrare la pubblicità. Allora, questa società ha iniziato a derogare sugli smartphone o sui computer dei propri utenti banner pubblicitari che arrivano dal proprio network. Cioè, loro hanno detto: abbiamo una base installata così elevata e così diffusa, ci facciamo una propria rete pubblicitaria e deroghiamo noi pubblicità. Certo, sembra un po' un controsenso, visto che questo era un software nato per bloccare la pubblicità, ma loro dicono: noi eroghiamo pubblicità a quegli utenti che hanno deciso di filtrare, di accettare solo banner cosiddetti non invasivi. In questo modo Adblock Plus potrebbe diventare un player importante nel mercato pubblicitario, ma ovviamente i player che sono oggi molto importanti in quel mercato non sono proprio contenti. Dal 20 settembre, quindi della prossima settimana, per quei pochi che hanno deciso di non restituire il Galaxy Note 7, arriverà un aggiornamento software che previene il pericolo di surriscaldamento e la possibile esplosione della batteria. O quando parliamo di batterie che esplodono, non è che dovete immaginarvi l'esplosione di una bomba. C'è una fuoriuscita dall'involucro della batteria di materiale. La cosa assomiglia a un'esplosione, però non è una cosa violenta. Dunque, o comunque non è, diciamo, esplosiva nel senso in cui immaginiamo l'esplosione di una bomba, ad esempio. Allora, ricordiamo che per questo difetto di progettazione, di costruzione, Samsung è stata costretta a ritirare dal mercato milioni del nuovo Galaxy Note 7, con un danno economico di svariati miliardi e soprattutto un danno di immagine che ha pochi precedenti nella storia. C'è anche chi dice che favorirà altri produttori nel prossimo trimestre. Questo lo vedremo. Allora, c'è stato un problema di progettazione tale per cui, senza scendere in dettagli tecnici, comunque l'anodo e il catodo, questa è una cosa che molti hanno studiato anche a scuola, sono due dei principali elementi di una batteria, entrano in contatto e non dovrebbero farlo e quindi creano questo problema. Ricordiamo anche che l'Italia è praticamente non coinvolta, perché questo prodotto non era arrivato quando è stato scoperto il problema, e effettivamente nel mondo sono rimasti in pochi che si sono tenuti il prodotto, che non si sa perché non l'abbiano restituito, visto che c'è un programma di restituzione. Comunque questo episodio e anche gli altri che abbiamo commentato negli ultimi anni, perché abbiamo assistito a problemi del genere sia nell'industria dell'elettronica del consumo ma anche in altre industrie. Alcuni ricorderanno che per qualche mese sono rimasti a terra proprio per un problema alle batterie al litio i Boeing 787 nuovi di zecca in Giappone. Comunque questo episodio riporta l'attenzione sull'affidabilità e la sicurezza delle batterie, in particolar modo quelle a litio, in un mondo sempre più dipendente dai sistemi di accumulo di energia. Pensate a quello che sta succedendo nel settore delle auto elettriche. Stefano Besseghini, amministratore delegato di RSE, Ricerca Sistema Energetico. Questi sistemi di accumulo sono di fatto degli oggetti elettrochimici, sono degli oggetti che hanno delle loro caratteristiche. Fondamentalmente una batteria non fa nient'altro che accumulare degli elettroni mettendoli a disposizione in certi siti particolari o facendo avvenire delle reazioni chimiche, in maniera che poi questa energia che viene accumulata possa essere restituita in un secondo momento, facendo tipicamente avvenire il processo chimico o al contrario, secondo un altro percorso, in maniera da restituire questa volta l'energia elettrica che aveva immagazzinato in precedenza. Quindi abbiamo comunque degli oggetti in cui abbiamo la contemporanea presenza di materiali spesso particolari, molto, con caratteristiche molto di una qualche rischiosità, con la necessità di accoppiare questo con processi di carica e scarica dell'energia, che evidentemente poi inducono calore, inducono appunto, quando l'energia si muove, il suo sottoprodotto tipico è appunto il calore, e la combinazione di questi fattori evidentemente va tenuta d'occhio per evitare che possono insorgere dei problemi. Nello specifico le batterie al litio ce l'hanno un pochino nella caratteristica costituente stessa della batteria, sono fatte appunto con dei composti in cui è presente il litio. Il litio è un metallo alcalino che reagisce, come tutti i metalli alcalini, molto facilmente con l'acqua, con l'atmosfera, si ossida, insomma riesce a reagire abbastanza rapidamente e prontamente. E quindi ovviamente quando non si riescono a garantire le condizioni di sicurezza e le condizioni di corretta gestione di questo strumento complicato, perché a noi la batteria sembra tutto sommato una roba semplice che dobbiamo semplicemente prendere e infilare nel cellulare o mettere dove la dobbiamo utilizzare, ma in realtà al suo interno ha un'ingegneria abbastanza raffinata. Ecco, se qualcosa non funziona, il rischio evidentemente del surriscaldamento oppure dell'incendio, dell'esplosione ci può essere. In realtà questa, che è quella che si chiama la sicurezza intrinseca delle batterie, cioè la disponibilità, diciamo così, di una batteria a far correre dei rischi all'utilizzatore, non è uguale per tutte le batterie, in effetti. Cioè, sono alcune che hanno una sicurezza intrinseca maggiore e altre che hanno una sicurezza intrinseca minore. Quello che conta in realtà è anche convincersi e capire che la batteria, diciamo nel 99% dei casi, è un oggetto che è fatto da una cella che viene tipicamente associata con altre celle per costituire quello che è il vero sistema, quello che noi usiamo, ma un po' ne abbiamo tutti l'esperienza, no? Quando noi vogliamo avere una potenza sufficiente mettiamo più batterie assieme. Ecco, anche nella costruzione della batteria questo avviene, le singole celle vengono messe assieme per ottenere una batteria completa che viene chiamato tipicamente sistema. Nel sistema è incluso anche il meccanismo, tipicamente elettronico, che permette di garantire la corretta gestione di queste batterie. Quindi veramente l'ingegneria dei sistemi di accumulo è una cosa che ha delle sue complessità. Chiaro che può succedere che qualcosa, come tutti i manufatti umani, non vada per il verso giusto, e questi poi possono essere gli esiti della di questo evento. Al di là dei problemi di progettazione, perché qui stiamo parlando di un problema di progettazione, in generale ci sono delle regole da seguire per mantenere efficiente una batteria, o possiamo maltrattarla come vogliamo? Diciamo 80% possiamo maltrattarla, 20% teniamoci comunque qualche cautela operativa. Dico questo perché in realtà, come ho cercato di dire prima, all'interno del sistema batteria, che poi è quello che noi usiamo, le celle sono già in qualche maniera protette, cioè c'è un sistema di gestione, di controllo, un sistema di scambio termico, insomma una progettazione del packaging, insomma tutte queste cose che fanno sì che la batteria, quella veramente attiva, quella che veramente può dare problemi, sia in qualche maniera già protetta dalle situazioni più normali, ecco, diciamo così. Quindi una batteria usata normalmente problemi non ne dà. Alla fine però, come dicevo, si tratta sempre di oggetti elettrochimici, quindi se io ne spingo le prestazioni molto oltre, li faccio lavorare in ambienti ad esempio a temperatura alta, posso portarmi nelle condizioni in cui la batteria, probabilmente, diciamo, una batteria ben costruita non si danneggia, cioè non esplode, non fa un danno, ma si rovina. Questo potrebbe succedere, per cui ad esempio una batteria a litio tipicamente, che operi a temperatura veramente alta, diciamo sopra i 60-70 gradi, che sembrano temperature altissime, ma se uno lascia il telefono in macchina sotto il sole d'estate, sul cruscotto, non è così impossibile da raggiungere, e certamente le caratteristiche della batteria possono essere compromesse, quindi essere meno efficace. Sono ancora vere quelle, non so se erano leggende, che la batteria va ricaricata completamente, scaricata completamente? No, non sono leggende, quelle anzi sono proprio quelle buone pratiche, diciamo così, di gestione di una batteria, che ovviamente non si chiedono all'utente normale che utilizza la propria batteria e la usa, insomma, anche perché molto spesso la vita utile della batteria è superiore decisamente alla vita utile dell'oggetto in cui la batteria si trova, quindi forse il problema rischia di essere non funzionale, non utile. Ma chi gestisce dei pacchi batterie, dei sistemi di batteria per servizi, ad esempio per servizi, come adesso ormai sta abbastanza sviluppandosi, per servizi alla rete e quant'altro, c'è una gestione delle batterie, per cui ad esempio si evita la scarica troppo profonda, che è una cosa assolutamente non particolarmente salubre per nessuna batteria, così come si cerca di evitare la sovraccarica o la modalità di carica non corretta. C'è tutta una sua tecnologia, molto spesso gestita da sistemi automatici, ecco, quindi non è che è l'operatore che si preoccupa di dover fare chissà che cosa, è la logica di controllo della batteria che ha già internamente queste capacità di controllo. Certo, comunque diciamo, per il nostro smartphone, visto che siamo partiti da una notizia relativa agli smartphone, se noi ricarichiamo completamente la batteria e la scarichiamo completamente è una buona prassi. Allora, questa era una buona prassi nelle batterie della generazione precedente. Nelle batterie al litio in realtà è abbastanza ininfluente, non è così importante. Quello che certamente va evitato nelle batterie al litio, ad esempio, di tenerle invece continuamente in carica. Questa è una cosa che tipicamente gli può dar fastidio. Esistono delle alternative che potremo vedere a breve sugli smartphone per un problema molto semplice, che è quello con cui noi combattiamo tutti i giorni, cioè la durata della carica? Questa è la vera, diciamo, terreno di scontro e di battaglia in questo momento di chi fa la ricerca nel settore delle batterie, perché ovviamente il tentativo è quello di spingere l'energia specifica, che è l'energia che io posso effettivamente accumulare all'interno della mia batteria, il più in alto possibile, ovviamente in maniera da avere batterie relativamente piccole e però con una capacità di mantenimento della carica molto lunga nel tempo. In realtà si sta facendo parecchie attività di ricerca sia sulla parte proprio a livello di cella, tipicamente lavorando sui materiali per gli elettrodi, il grafene, anodi a base di silicio, sono soluzioni che si usano. Poi un'altra cosa su cui si lavora molto è quello di aumentare la conducibilità e la minore resistenza interna della batteria in maniera da far sì che i cicli di carica possano essere più veloci e si possa estendere il campo di temperatura in cui la batteria è in grado di lavorare adeguatamente. E poi c'è tutta la parte, diciamo così, di ibridazione della batteria, cioè in cui alla batteria si cerca di aggiungere altri componenti, tipicamente supercondensatori oppure sistemi di elettrodi studiati con materiali particolari. Adesso diventerebbe un po' complicato mettersi a fare la tassonomia di tutti gli esempi possibili, proprio per riuscire a fare in modo che tutta l'energia che viene accumulata venga restituita, quindi quello che ho di massa di materiale, di batteria da poter utilizzare per accumulare energia, lo sfrutto fino all'ultimo elettrone sostanzialmente. Sì, comunque diciamo, all'orizzonte non ci sono grandi notizie. Ma dunque ci sono due o tre aree. Sto pensando ad esempio, sempre per stare nel caso delle litio, le celle litio-aria, che sono delle celle che sono estremamente promettenti dal punto di vista dell'energia specifica teorica, che può essere veramente significativa. Ci sono le litio-zolfo, ci sono le celle a sodio-ioni, è veramente una famiglia di combinazioni di materiali che si stanno esplorando per trovare l'ottimale. C'è da dire che è un problema non lineare, non è miglioro questa cosa, miglioro quell'aspetto lì. Le batterie hanno diversi elementi che vanno tenuti in considerazione, diversi parametri, la densità di potenza, la capacità di densità di energia, l'energia specifica, la sicurezza intrinseca, e a volte appunto bisogna cercare il trade-off ottimale tra questi diversi parametri. Quindi magari una combinazione di materiale che mi dà un'elevatissima densità di energia, però poi mi è molto poco sicura, ad esempio, adesso faccio un esempio estremo, e quindi ovviamente tendo a scartarla, oppure la posso utilizzare solo in particolari zone di nicchia. Quindi è veramente un settore in grandissimo fermento, perché è evidente che la capacità del mercato di recepire sarebbe elevatissima. Certo, quindi anche il business potenziale è molto elevato. Certo. C'è molta ricerca sul settore delle... c'è da dire che noi stiamo parlando di elettronica, ma ad esempio la conversione della motorizzazione da combustione dei fossili alla motorizzazione elettrica è uno dei driver principali in questo momento per la ricerca nel settore delle batterie, perché è evidente che quello sarebbe un mercato che è in grado di assorbire sia quantità che diciamo tipologia, che qualità della batteria con particolari caratteristiche. Certo, e al momento, visto che non ci sono grandissimi prodotti innovativi che potrebbero appunto garantire lunghe percorrenze, ad esempio, anche quel settore utilizza batterie tipiche dell'elettronica di consumo. Sì, diciamo usa varianti, della batteria, sono sempre batterie al litio, però anche è un po' come dicevo prima, dire batterie litio-ioni vuol dire avere in mente almeno una famiglia dove ci sono almeno 5-6 tecnologie tra di loro leggermente diverse, sono diverse i catodi, è leggermente diverso l'anodo, si usano dei litiati con certe caratteristiche piuttosto che altre. Ecco, perché non bisogna pensare che nella batteria al litio la batteria sia fatta di litio, in realtà il litio all'interno della batteria propriamente detto come materiale è qualche per cento, sarà il 2% del materiale, il resto ed è classicamente presente sotto forma di ossido o di composto con altri con altre sostanze, proprio per ridurne la reattività, quindi per renderlo compatibile con un utilizzo domestico sostanzialmente, per non avere le reazioni che il litio metallico puro invece evidentemente avrebbe. Molto bene, grazie a Stefano Besseghini per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie, grazie, buona serata. Buona serata. Molti di voi conoscono i fatti della ragazza che si è suicidata dopo che un video dove lei faceva sesso con un amico è finito in rete. Al di là delle tante considerazioni che abbiamo fatto, direi in quasi tutti i programmi di Radio 24, vorrei attirare la vostra attenzione su quello che si può fare oppure non fare, quali sono le prudenze da tenere in mente quando si mette in rete una foto o un video dove ci sono amici, conoscenti. Ci chiarisce tutto l'avvocato Carlo Melzi Deril. La pubblicazione di un video online o di un'immagine è sicuramente un trattamento di dati personali. Il trattamento di dati personali, se compiuto da un privato, non nell'ambito di un'attività che può essere chiamata anche soltanto in generale giornalistica, ha bisogno, per essere compiuto, del consenso dell'interessato. Cioè, se io pubblico la fotografia di una persona, ho bisogno che questa persona mi dia il consenso. Se poi ci sono dei dati personali, ad esempio si rivela il suo stato di salute, le sue preferenze sessuali, il suo credo religioso, ci sarebbe bisogno non solo del consenso della persona, ma anche dell'autorizzazione del garante. Se non ho questo consenso, commetto un illecito. Questo illecito cosa può determinare? Può determinare il fatto che l'interessato, se non è d'accordo, può rivolgersi al garante, che mi può ordinare di cancellare quella data, quindi quell'immagine, quel filmato, oppure può rivolgersi al giudice civile che, oltre a ordinarvi di cancellarlo, può anche dare un risarcimento all'interessato. In più, nell'ipotesi in cui io abbia compiuto questo gesto, cioè pubblicato il filmato, al fine di ottenere un profitto o di recare un danno, e se questo danno veramente lo ha recato, rischio di commettere anche il reato di illecito trattamento di dati personali, che può determinare una pena fino a 2 anni di reclusione. Beh, potremmo dire che, esagerando forse, ma non so quanto esagerando, tutti noi, anche quando pubblichiamo una fotografia su un social network di noi e magari un amico durante le vacanze, anche in quel caso dovremmo chiedere l'autorizzazione esplicita. Non sta esagerando, in verità, nel senso che che poi la maggior parte della gente non reagisca perché c'è un consenso, diciamo così, successivo, questo fa sì che in realtà non ci siano molti processi o comunque molte cause che hanno ad oggetto questa materia. Ma lei ha perfettamente ragione nel dire che anche pubblicare la foto delle vacanze sul social network ha bisogno del consenso delle persone ritratte. Però immagino che dipenda anche dal contenuto della foto o del video. Certo, come dicevamo prima, se il dato personale è un dato personale generico o comunque un dato personale anche sensibile, ma che non riguarda fatti della vita intima, gli illeciti sono quelli che abbiamo descritto. Se per esempio però, qui facciamo pure riferimento al tragico caso di cronaca, se il video che io ho è un video magari filmato con il perfetto consenso dei protagonisti, ma che mostra un esplicito atto sessuale, la pubblicazione di questo video può, se ha creato un danno e se è fatto per creare un danno, avere un profitto, determinare il reato di illecito trattamento di dati personali, ma può determinare anche il reato di diffamazione, cioè la lesione del decoro, della reputazione della persona che, senza il proprio consenso, si vede pubblicato un momento della propria intimità più personale. Beh, concludendo, potremmo dire che così come nel caso più esplicito della diffamazione che deriva da un contenuto che io ho scritto sul social network, di cui avevamo parlato in una precedente puntata di 2024, sia in questo caso per quanto riguarda la pubblicazione di video o anche di fotografie, ci sono dei potenziali illeciti commessi da decine di migliaia, direi milioni di persone, che poi non sfociano in cause legali, però direi che il potenziale, quindi di conseguenza la prudenza che noi dovremmo adottare, dovrebbe essere molto più elevata. Sono d'accordo con lei, basti pensare ad una cosa, cioè i dati personali non sono merce di libero scambio, in libera disponibilità, i dati personali appartengono alla persona cui pertengono, cioè i miei dati personali sono miei, se qualcuno li vuole utilizzare mi deve chiedere il permesso. Adesso passiamo ad un'altra notizia, parliamo di Wi-Fi in ambito pubblico alla luce di una decisione della Corte Europea di Giustizia. Molto interessante perché riguarda un argomento di cui abbiamo parlato tantissime volte, di cui si è parlato tantissime volte, la necessità di dotare luoghi pubblici privati, che ne so, bar, alberghi, cose del genere, ma anche luoghi pubblici nel vero senso della parola, come piazze, come uffici del comune, di connessioni gratuite Wi-Fi. Dopodiché molti si domandavano, ma è giusto che ci sia la registrazione, che è una scocciatura, una seccatura pazzesca, oppure invece dovrebbe essere tutto libero? C'è questa decisione che abbiamo commentato con Innocenzo Genna, che è un esperto di regolamentazione europea nell'ambito delle telecomunicazioni, che da anni invitiamo a 2024, scrive anche sul suo blog radiobruxelleslibera.com, che non è una radio ma è un blog su internet. Innocenzo, bentornato a 2024. Grazie. Allora, che cosa hanno deciso, che cosa hanno detto i giudici della Corte Europea di Giustizia? La Corte Europea ha stabilito che un soggetto come quello di questa fattispecie, cioè di un negozio che vendeva prodotti di illuminazioni e che metteva a disposizione dei propri clienti l'accesso Wi-Fi gratuito, questo soggetto non è responsabile delle violazioni compiute da questi clienti sulla rete internet. Immaginiamo qualcuno che si è messo a scaricare illegalmente del materiale protetto dal copyright, o qualcuno che ha fatto degli atti di diffamazione o qualsiasi altra cosa che può essere penalmente rilevante. Quindi l'operatore, o meglio il negoziante che ha messo a disposizione la rete Wi-Fi, non è responsabile dei fatti illeciti commessi da questa persona. Si interviene anche sulla capacità o meno di poter identificare l'utente, perché un conto è dire, ok, tu negoziante non sei responsabile, però poi questo utente va identificato per cui questa mancata responsabilità sia piena, oppure posso offrire il Wi-Fi gratuitamente anche senza identificazione. Sappiamo che ormai la regolamentazione anche in Italia permette di offrire Wi-Fi senza l'obbligo della registrazione. Che cosa dice su questo punto la Corte Europea di Giustizia? La Corte ha detto che coloro che lamentano una violazione del loro diritto commessa appunto da queste persone che utilizzano il Wi-Fi libero possono chiedere al soggetto che offre il Wi-Fi di proteggere la rete Wi-Fi attraverso un sistema di password in modo che gli utenti possano essere identificati e non restano anonimi. Questo però in pratica che cosa vuol dire? Che se io sono un negoziante, che come mi devo comportare? Beh, al momento non cambia molto, perché la Corte non sembra dire che dal punto di vista normativo le reti devono essere sempre schermate. La Corte dice che caso per caso un soggetto che lamenta la violazione di un diritto può, tramite l'ingiunzione o un ordine amministrativo, chiedere al fornitore di Wi-Fi di mettere in atto questo tipo di protezione. Quindi mi immagino che una cosa del genere non capiterà per, diciamo, un Wi-Fi dove ci sono poche persone, ma semplicemente potrebbe capitare in un luogo pubblico dove si connettono abitualmente un gran numero di utenti. A quel punto diventa statisticamente possibile e probabile che qualcuno faccia un uso illecito della connettività Wi-Fi. Anche in questo caso però non è il fornitore di Wi-Fi che deve preventivamente schermare la rete, ci deve essere una richiesta verificata da un giudice o da un'autorità amministrativa competente che chieda appunto di schermare l'accesso alla rete internet tramite una password identificativa. Dunque, visto che siamo collegati, vorrei approfittare per farti fare un commento su quello che sta succedendo a proposito di roaming, perché io la scorsa settimana ho dato la notizia, ma molto brevemente, della presentazione di una proposta della Commissione che verrà discussa a metà di dicembre relativa alla cosiddetta, tra virgolette, fine del roaming, perché abbiamo detto più volte che poi questa fine del roaming non ci sarà, in effetti non sarà completamente abolito il roaming, perché ci sarà una sorta di limite per evitare gli abusi. E l'abuso, l'esempio che si fa più spesso di abuso, è che io compro una SIM in un paese dove il costo della vita è molto basso e poi lo utilizzo nel mio paese. Ovviamente c'è uno squilibrio tra la rete che io utilizzo in quel paese, e l'operatore deve costruirla con i prezzi di mercato di quel paese, e io che magari usufruisco di una SIM di un paese dove il costo della vita è più basso. Ecco, che cosa dice la Commissione e qual è lo stato del dibattito? Perché ci sono state un po' di polemiche a Bruxelles. Sì, vi sono state delle contraddizioni interne alla Commissione, perché gli uffici competenti avevano preparato una proposta in seguito a una consultazione, anche un'analisi del mercato, in base al quale la fine del roaming sarebbe stata, cioè dei sovraccosti roaming, sarebbe stata garantita per un periodo minimo di 90 giorni l'anno. E alcune associazioni di consumatori e qualche parlamentare ha protestato dicendo che non era abbastanza. Devo dire che qui siamo un po' in una situazione un po' di populismo, perché abolire per 90 giorni all'anno i sovraccosti roaming vuol dire andare incontro ai bisogni dei cittadini nel 99% dei casi, perché non conosco gente che viaggi all'estero per più di 90 giorni all'anno. Chi lo fa di più sono, diciamo, o i giostrai o qualche ricco businessman, però stiamo parlando di un segmento di cittadinanza estremamente limitato. 90 giorni erano più che sufficienti, quindi vi è stata una presa di posizione, secondo me, di qualcuno semplicemente per creare un caso politico. Fatto sta che la stessa commissione ne è rimasta, come dire, un po' impressionata, e il presidente Juncker alcuni giorni prima del discorso sullo Stato dell'Unione, temendo di trovarsi domande scomode sull'argomento, ha chiesto il ritiro della proposta e ha chiesto agli uffici anche di preparare una nuova con una, diciamo, un'esenzione dal roaming ancora più ampia. Io mi aspetto qualcosa tipo 6 mesi, visto che si è parlato del caso degli studenti Erasmus, che quindi non, per loro l'esenzione dei 90 giorni non era sufficiente. Io personalmente, da esperto, trovo questa situazione molto paradossale, perché in verità quando una persona si trova all'estero per molto tempo, tipo uno studente Erasmus, necessariamente a un certo punto deve cambiare la tessera SIM, perché se vi sono dei problemi col suo operatore, col suo telefono, lo può fare solamente con il proprio operatore nazionale. Se perde la SIM, ad esempio, se non ha prepagata la deve ricaricare, se ha un problema di customer care. Alla fine, quando uno si stabilisce all'estero, deve cambiare operatore. La necessità di eliminare il roaming vi era solo per coloro che sono transitoriamente all'estero. E quindi 90 giorni secondo me era più che sufficiente. Quindi adesso noi dobbiamo aspettarci l'arrivo di una nuova proposta. Sì, una nuova proposta che è molto temuta dall'industria, ma non tanto per, diciamo, la fine del roaming, perché ormai l'industria ha capito benissimo che non si possono più fare soldi con il roaming. Il problema è che questo è un cambiamento strutturale del mercato che porterà, secondo me, al fallimento molti operatori, perché attualmente per fornire i servizi roaming molti operatori, quasi tutti, devono acquistare l'accesso alle reti estere, perché il roaming si fa attraverso l'acquisto di traffico su una rete estera. Poiché i costi di accesso alle reti estere è ancora troppo alto, regolamentato dalla stessa commissione, ma è ancora troppo alto, molti operatori per fornire servizi roaming al prezzo domestico andranno sotto costo. Ed è questo un problema drammatico per una grossa parte degli operatori, che, anche italiani, tra l'altro quelli maggiormente innovativi, che fanno prezzi più bassi. Per poter riuscire a soddisfare questa regola, dovranno paradossalmente alzare i prezzi domestici. Quindi questa novità, diciamo, della completa eliminazione del roaming potrebbe avere come boomerang un aumento generalizzato delle tariffe del mobile. Certo, perché nel caso del roaming, cioè quando si è in roaming, ci perderebbero soldi. Sì, e allora per evitare di perdere soldi devono aumentare i prezzi domestici, in modo che applicheranno all'estero la stessa tariffa aumentata che hanno dentro le frontiere nazionali. Poi, se pensiamo al mercato, se questa previsione si avverasse, quindi fallissero alcuni operatori, meno operatori sul mercato significa meno concorrenza, quindi matematicamente o quasi matematicamente prezzi in aumento. Certo, perché più il mercato si consolida, più scompaiono gli operatori che fanno i prezzi più competitivi e più il mercato diventa preda di grossi operatori che senza la pressione della concorrenza tendono ad aumentare i prezzi e a incamerare profitti piuttosto che fare prezzi più convenienti, offerte più variate. Molto bene, io ringrazio Innocenzo Genna per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete utilizzare la nostra email 2024@radio24.it per interagire, oppure anche Facebook e Twitter. E alcuni di voi diranno: per interagire bisogna che agisca una parte e anche l'altra, quindi se ti scriviamo un'email dovresti rispondere. Avete ragione, si sono accumulate un po' di email, devo impegnarmi nella risposta. È anche vero che alcune email prevedono risposte molto complesse che a volte nemmeno io so, dovrei chiedere ai nostri ospiti, però mi impegnerò a rispondere. Dunque, in questa puntata ospitiamo l'amministratore delegato di HP Italy, Tino Canegrati. Benvenuto 2024. Grazie. Diciamo subito che HP Italy è una parte di HP. Oggi ci sono due HP. Forse non tutti gli ascoltatori lo sanno, da un po' di mesi vi siete divisi in due parti, giusto? Certo, da quasi un anno ci siamo divisi in due parti, una società che continua a chiamarsi HP, l'altra che si chiama Hewlett Packard Enterprise. Nella società che si chiama HP sono contenute sostanzialmente tutta l'offerta che viene utilizzata da persone non informatiche, quindi PC, notebook, stampanti, scanner e così via. Nell'altra organizzazione sono invece contenuti tutte le offerte che riguardano invece persone che sono dell'IT, quindi che vanno nei data center, quindi server, storage, networking e i servizi e software collegati. Tino Canegrati invece è l'amministratore delegato di stampanti, computer, Esatto, ecco, questi, notebook. DHP, sì. Esatto. La notizia di questa settimana, che ci dà anche il là per parlare soprattutto di stampa, che è un'esperienza abbastanza comune per molti milioni di consumatori o persone che lavorano, poi parliamo anche dell'evoluzione della stampa. La notizia riguarda HP, che ha annunciato che comprerà la divisione di stampa di Samsung. Per quale motivo? Per far massa critica e per togliervi di mezzo un concorrente? Ma guarda, l'acquisizione, o la proposta di acquisizione, perché sappiamo che deve passare attraverso le autorizzazioni, certo. Diamo per scontato, assolutamente, è una dei tasselli di una scelta che abbiamo fatto, che è quella di entrare in un mercato maturo, quello della stampa formato A3, che in buona sostanza è il mercato, diciamo così in modo semplice, delle fotocopiatrici, delle multifunzioni, un mercato in cui noi siamo presenti marginalmente, e di cercare di trasformarlo così come abbiamo fatto con molti altri mercati. Quindi l'acquisizione è una di queste componenti che si basa su, direi, tre aspetti che tendono a migliorare, hanno l'obiettivo di migliorare e modificare in positivo l'utilizzo delle stampanti. E quali sono questi tre aspetti? Ma allora il primo è che introduciamo nel mondo della stampa 3 una tecnologia nuova che si chiama PageWide, che in buona sostanza, senza entrare nel dettaglio, porta tre grandi vantaggi. Il primo, rende accessibile il colore a tutti in termini di costo. Quindi può trasformare la vita in ufficio dal bianco e nero al colore con tutte le implicazioni che ci sono. Certo, perché ancora oggi quando si stampa a colori lo si fa solo perché costa, cioè certo. Si consuma un sacco di inchiostro. Esatto. Il secondo aspetto è quello di avere una tecnologia che abbatte i consumi elettrici dell'80%. Prova a immaginare cosa vorrebbe dire in casa tua: tutti i tuoi elettrodomestici riducono il consumo 80%, l'impatto che ha sulla tua bolletta e l'impatto, certo, sul carbon footprint. Perché qui stiamo parlando di aziende che hanno molte stampanti, perché se uno guardasse la stampante di casa propria dice vabbè, chi se ne frega, no? Cioè, stampare spendendo un po' meno, però magari stampo tre foglie al giorno oppure due alla settimana. Hai assolutamente ragione, però sappiamo che in ufficio invece ci sono molte che stampano continuamente e sono sempre accese. Esatto. Il terzo aspetto, sempre dal punto di vista ecologico, è quello di ridurre in maniera importante, molto importante, fino al 90%, tutto quello che riguarda il waste intorno alla stampante. Cosa vuol dire con waste? Voglio dire gli imballi, i costi di trasporto dei materiali di consumo, le dimensioni delle parti di materiali di consumo che vengono riciclate e così via. Quindi questa è la prima parte, PageWide, accesso al colore a tutti, riduzione dei consumi elettrici e riduzione di tutto il waste, certo, che c'è intorno. Stiamo parlando di stampa laser o a getto di inchiostro? Allora, PageWide è basata di fondo su una tecnologia a getto di inchiostro. La grande rivoluzione che abbiamo portato, o che i nostri ingegneri hanno portato, è quello di trasformare il moto traslatorio che conosciamo bene del getto di inchiostro, con questa testina che si sposta da sinistra a destra con una lentezza qualche volta esasperante, sì, invece di trasformarlo in una serie di testine fisse che coprono tutto il foglio, per cui in buona sostanza il foglio scorre sotto questa testa, su cui ci sono milioni di ugelli, e in maniera molto rapida, fino a 70-80 pagine al minuto, capisci, parliamo veramente di velocità molto elevate, trasferiscono l'inchiostro sulla carta e quindi eliminano, se vuoi, sì, la limitazione. Questo per il PageWide. Sì, in effetti PageWide è una tecnologia che voi avete lanciato sul mercato ed è una delle principali novità del mondo della stampa degli ultimi anni, perché stiamo parlando di un mercato, quello della stampa, che non è che ha visto delle grandi novità negli ultimi anni. Ma guarda, hai ragione. PageWide penso che sia stato, dal punto di vista proprio della tecnologia pura, quindi non di miglioramenti a gradini, sì, l'unica grande novità degli ultimi anni. Sì. È una tecnologia però riservata all'uso professionale. O anche cominciamo a vedere qualche prodotto semi professionale o per la casa? Ma no, per la casa no. No. Perché non, un cliente a casa, un consumatore a casa non trarrebbe il vantaggio della velocità, della riduzione dei costi, proprio per il motivo che hai detto, sì, tu, alla fine stampo poco. Sì, no? Sì, sì. Però per quello che riguarda le piccole imprese e i professionisti, è ad oggi il mercato principale. Sì. È ad oggi il mercato principale. In un mondo che già da non so quanti decenni aspira al, si dice in inglese, paperless, senza carta. Io ricordo, sono un grande, oltre a lavorare, sono anche molto appassionato dell'evoluzione tecnologica della radio, leggevo già dagli anni 90 delle riviste che parlavano del paperless studio, quindi studi radiofonici senza carta. In realtà c'è ancora un sacco di carte, devo dire che anche noi stampiamo, sono dei miei colleghi che sono insomma, molto contenti di stampare, di avere... si stampa ancora molto, per voi va benissimo ovviamente. Ma penso, guarda, hai toccato un altro aspetto molto importante. Se tu chiedi mio parere sul paperless office, io ti dico, magari fra 50 anni, 60 mai anni. Però quello che sta succedendo gradatamente, sì, è che io uso la stampa in una maniera qualitativa più elevata. Quindi magari stampo di meno, sicuramente stampo di meno, perché posso usare altre modalità, il tablet, il mio smartphone, eccetera. Ma quando ne ho bisogno, voglio l'immediatezza, voglio il collegamento con qualsiasi device abbia e voglio una stampa di qualità. Perché mi serve? Perché ho davanti a me con una luce particolare il foglio con cui voglio fare l'intervista e giustamente la carta è il modo migliore, ma però voglio che sia scritta in una maniera molto chiara e leggibile, sì. Perché no, tu non porti gli occhiali, ma io sì, e quindi... qual è l'equilibrio tra getto d'inchiostro e laser? Ma allora... Complicato, con, No, perché, con questo no. Magari aggiungo, siamo fermati al primo pilastro, aggiungo il secondo pilastro. Il secondo pilastro è proprio quello di introdurre la stampa page wide in questo mercato della 3, quindi in questo mercato delle fotocopiatrici, con questo cambiamento importante, questi vantaggi abbiamo detto. Il secondo è comunque di complementarlo con un investimento importante dal punto di vista della laser. Perché? Perché Samsung ha molti brevetti su quel... Guarda. Samsung, non tocca a me dirlo, però ha il vantaggio di essere entrata sul mercato delle meccaniche, qui stiamo parlando della parte meccanica della macchina, più tardi dei principali costruttori e quindi ha cominciato a costruire dei modelli senza avere la storia precedente e noi sappiamo che spesso avere la storia precedente facilita il ramp up ma limita la creatività. Ecco, Samsung lì è partita ovviamente parecchio tempo fa, ma ha costruito delle meccaniche che sono molto più semplici. E quando tu vuoi trasformare un mercato, il fatto che comunque le componenti, soprattutto meccaniche, che sono più delicate di quelle elettroniche, siano più semplici, per noi costituisce un vantaggio molto importante. Certo. Per rispondere o per indirizzare la domanda che mi hai fatto prima, laser ink, ecco, noi crediamo... Ink, page wide, laser, noi crediamo che ci sia sempre un blended, come in tutte le cose. Non è vero che le automobili, nel momento in cui esce la macchina elettrica spariscono le macchine a benzina, o al contrario, nel momento in cui sono le macchine a gasolio non c'è più le macchine a benzina, perché ci sono sempre usi differenti, modalità differenti, abitudini differenti, necessità differenti. Quindi noi pensiamo che le tecnologie siano così importanti da convivere tutte assieme. E allora arrivo al terzo punto. Quindi ti dicevo, il secondo punto è quello di avere un'offerta nel mondo della 3, non solo page wide, ma un'offerta molto ampia, completa, per quello che riguarda le laser, utilizzando la tecnologia Samsung, ancora prima di averla acquisita come business unit. Ah, perché indipendentemente da quello che succederà sulle autorizzazioni. Queste macchine usciranno comunque all'inizio di marzo. Poi ci crediamo così tanto che pensiamo sia importante portare a bordo i 6.500 brevetti che Samsung ha nella parte meccanica delle stampanti e portarla a bordo perché è una componente fondamentale. Sì. Quindi se vuoi, ritorno a quello che dicevo prima, la notizia non è, secondo me, l'acquisizione, o una parte della notizia è l'acquisizione della business unit di Samsung, la notizia vera è che HP entra in un mercato maturo, eccetera, per cercare di trasformarlo. Sì. Beh, comunque la notizia è anche che spendete più di $1 miliardi, che sono un sacco di soldi. Nel mondo della stampa non è che si sono viste operazioni del genere, quindi è comunque una notizia molto importante. Di sicuro vi togliete un concorrente, quindi consolidamento del mercato, sì, questo, e quindi insomma è interessante e importante. Nel mix tra mondo consumer, quindi la stampante che io mi compro e porto a casa, e business, quanto vale l'uno e l'altro? Ma guarda, è chiaro che il mondo della stampa del business è preponderante, soprattutto nel momento in cui parliamo di fatturato, di giro d'affari, eccetera, perché è vero che ognuno di noi ha una stampante a casa, però dal punto di vista sia del tasso di la uso poco e la cambio poco, sia dall'uso vero e proprio, ecco, quindi il peso della parte business è molto più importante, così come il fatto che l'utilizzo della parte business non è in declino, nonostante quanto si pensi. Poi magari si comprano più stampanti grandi e un po' meno stampanti piccole, ma il numero delle stampe complessive, come ti dicevo prima, non è in declino importante. Quindi si continua a stampare. Si stampa, ripeto, secondo me meglio. Sì. Una volta, se ricordi, si stampava qualunque cosa, a bassa qualità, a bassa risoluzione, eccetera. Oggi si tende a stampare bene quando serve, che credo anche vada bene un po' per tutti, no? Per noi come persone. Sì. Perché Che stiamo parlando di stampanti, uno dei mega trend degli ultimi anni, soprattutto in termini di comunicazione, poi se uno va a vedere nella realtà il fenomeno è un po' meno diffuso rispetto a quanto si pensava forse, è la stampa 3D. O comunque nel mondo industriale, nel mondo professionale c'è stata un'evoluzione anche con delle dei prodotti straordinari, delle serie delle innovazioni molto interessanti. Però il mondo consumer è fatto di appassionati, di makers, come si dice. Ecco, qual è la vostra posizione? Ma allora, per quello che riguarda la stampa 3D, come nella maggior parte dei mercati in cui entriamo per cercare di trasformare qualche cosa. In questo caso il nostro obiettivo, e abbiamo una macchina che è stata annunciata proprio recentissimamente che è sul mercato da oggi, quello che abbiamo come obiettivo è quello di trasformare il mercato manifatturiero. Quindi, per indirizzare la tua domanda, ad oggi noi non ci indirizziamo e non siamo focalizzati sul mondo dei consumatori, quindi su chi è creativo in casa o in piccole tirature. Noi siamo focalizzati sulla parte manufacturing perché pensiamo che quello che stiamo facendo possa essere una componente importante di quello che viene chiamato manufacturing 4.0. Quindi stiamo cercando di ricalcare quello che siamo riusciti a costruire nel mondo della grafica, sì, dando la possibilità alle aziende o a centri servizi che lavorano per aziende di poter lavorare non soltanto in prototipazione, che oggi è una modalità che esiste con molti costruttori che sono sul mercato, ma anche in piccole serie, che è il primo passo per poter veramente indirizzare un cambiamento nel manufacturing. Noi siamo convinti che se questa tecnologia, come speriamo, verrà accettata bene al mercato, ci sarà la possibilità di ritornare a quello che noi chiamiamo l'artigianato tecnologico, cioè il fatto di non dover più produrre in qualche posto in cui costi poco produrre la manodopera, eccetera, produrre in grandi lotti e trasportare grandi lotti, ma si possa produrre vicino a chi crea in lotti piccoli, specifici, dedicati ad esigenze particolari. Certo. Che speriamo sia un po' la forza dell'Italia. Sì, sì, magari attraverso centri servizi. Cioè io non ho la stampante a casa perché ancora oggi, forse ancora per molti anni, avere una stampa di buona qualità, tecnologicamente avanzata, costa abbastanza. Quindi io mi faccio, magari se sono un creativo, o anche se non sono un creativo, magari sono ignorante, però vado su certi siti e posso ordinare la stampa e vado, che ne so, o se non proprio sotto casa, a 10 km mi ritiro il pezzo che ho fatto. Quindi quello è il mercato. Ma guarda Enrico, un po', se posso fare un paragone, come sì, tutti i paragoni ha dei limiti. Quello che abbiamo fatto 7-8 anni fa, le prime volte che c'era la possibilità di fare stampa digitale, spesso noi creavamo le fotografie e andavamo in un posto per poterci fare stampare. Ecco, lo stesso concetto, che io sia un creativo, che sia una piccola azienda, non posso permettermi di comprare una macchina, non ha senso che me la compri, ho un centro in cui posso andare e sostanzialmente ritirare l'oggetto che, o gli oggetti che ho bisogno per il mio lavoro. Sì. Un aspetto non irrilevante nel mondo della stampa, e qui torno al mondo della stampa tradizionale, è quello della sicurezza. Perché uno potrebbe pensare che cosa c'entra la stampante con la security, con la sicurezza. Invece c'entra molto, perché è un pezzo collegato alla rete dove c'è software. Ecco, da questo punto di vista, cosa si sta facendo? C'è attenzione? Ma ti direi che qua è la nostra forza, il nostro focus è quello di venire dall'IT. Uh-huh. Venendo dall'IT, la sicurezza, che sia sicurezza nello storage, nel server o nel PC, fa parte della nostra natura. Quello che abbiamo già fatto sulle stampanti A4 e che diventerà una delle componenti fondamentali anche in questo grosso investimento che stiamo facendo nel mondo della 3, è quello di dare alle stampanti esattamente lo stesso livello di sicurezza che c'è sui personal computer. Quindi non soltanto l'antintrusione, ma anche la possibilità di fare detecting di qualunque virus possa essere stato inserito, di poter inserire nel BIOS stesso delle stampanti quel reboot automatico che ritorna all'ultima configurazione corretta e che quindi espelle qualunque tipo di virus che montiamo su tutti i PC di fascia medio-alta che vendiamo alle aziende. Ecco, perché questo. Che mi possono bucare la stampante, entrare in azienda attraverso la stampante. Guarda, ho visto qualche volta anche qualche film su questo, in cui oltretutto ovviamente esistono dei dati specifici di mercato in cui il grosso delle intrusioni vengono fatte innanzitutto sulle macchine distribuite, quindi che siano PC o stampati, e spessissimo sulla stampante. Questo è un aspetto effettivamente a cui non si pensa tanto. Hai ragione. Ed è proprio lì che uno attacca, perché... Hai ragione, perché uno pensa che quando manda i suoi dati riservati sulla stampante e poi li ritira digitando un codice o con un badge, alla fine lui ha ritirato il foglio di carta. Non pensa che la stampante, essendo collegata in rete, può aver visto questi dati asportati prima che io li ritirassi stampati. Non viene naturale pensarlo, no? Perché si stampano cose molto preziose. Che ne so, il budget di un'azienda, documenti, progetti. Ma guarda, ecco, pensa quando andiamo in ospedale e ci viene stampato davanti agli occhi, per esempio, il report dell'esame di sangue che abbiamo fatto, che è una cosa estremamente delicata e personale. Chiaro. Eppure viene stampata sulla stampantina di fronte a te. Sì. Effettivamente questo. Se noi guardiamo, perché ovviamente il vostro è un mondo molto, molto vasto, variegato, ci stiamo limitando al mondo della stampa, voi fate anche macchine molto grandi, estremamente grandi. Sì, nel mondo della grafica, e qui sai, c'è questo connubio fra quello che sviluppiamo come ingegneri, come tecnologia, e quello che invece riusciamo a comprendere dal mercato come esigenze dei clienti. E quindi usiamo spesso la tecnologia per modalità diverse. Quindi la stessa tecnologia di cui abbiamo parlato prima, il PageWide, che abbiamo detto lavora sulla 4, adesso lo introduciamo sul mondo della 3, ormai credo da 6-7 anni, è applicato a delle macchine che montano 200 di queste testine e stampano i giornali. Quindi, come puoi immaginare, sono macchine dimensionalmente importanti, grandi due volte la sala in cui ci troviamo in questo momento, sì. E che naturalmente... Che è 4 metri per 3, una roba del genere. E quindi sono dimensionalmente di questo tipo e vengono utilizzate per stampare sempre piccole tirature personalizzate, specifiche, sia su carta stampata, quindi giornali o libri, oppure anche su pacchetti o imballi. Sì, beh, soprattutto sui giornali non so quale sia il vostro business in prospettiva. Non sei proprio così fiducioso, però sui libri invece vedo che si continua a leggere la carta. Quindi... Sui giornali ti faccio un esempio, senza citare, c'è un gruppo che ha utilizzato questa flessibilità che viene dal fatto di avere il digitale e quindi di poter stampare piccole tirature per amplificare il suo business per quello che riguarda la raccolta pubblicitaria, perché pur trattando quotidiani, sostanzialmente riesce a fare degli inserti che sono locali e quindi riesce ad attrarre per ogni singola città, per ogni singolo paese, la società che ha interesse a promuovere solo in quell'area. Quindi nei momenti in cui la pubblicità scendeva in maniera molto importante, questa società che ha fatto l'investimento cresceva in termini di pubblicità perché sostanzialmente dava accesso a un quotidiano di diffusione regionale o multiregionale, dava l'accesso a poter fare della pubblicità specifica per lo specifico punto vendita di una certa area. Sì, con maggiore flessibilità e poi costi più bassi. Uno dei temi, e così vorrei concludere, molto importante in azienda riguarda il cambiamento. Noi abbiamo parlato e abbiamo citato la stampa, che è un pezzo delle aziende molto, molto importante, e una delle cose di cui si parla molto negli ultimi tempi, direi è un business che molti produttori di stampante hanno collegato alla propria offerta, è quello della gestione del documento, si dice document management. È un po' complesso dire, spiegare di cosa stiamo parlando, però se uno pensa ad un documento che magari viene prodotto digitalmente, perché io scrivo sul computer un documento, lo salvo sul computer, lo stampo, lo archivio, ecco, la gestione integrata all'interno del flusso dell'azienda di quel documento è un aspetto molto, molto importante. Difficile dire anche se si sta facendo e se c'è una maturità da parte delle aziende della comprensione di queste tecnologie. Però la faccio la domanda, quindi siamo ad un... perché se uno dicesse adozione di stampanti, direi 99% certo. Delle aziende hanno la stampante. Ecco, ma la comprensione di quanto si può fare nella gestione del documento c'è o siamo ancora un percorso molto complesso, molto difficile? Secondo me c'è la sensibilità. E in molte aziende ci sono anche una serie di applicazioni, perché il document management non è il fatto di togliere la stampa, è il fatto di ottimizzare tutto il flusso di un documento in ognuno dei suoi step attraverso delle procedure aziendali che possano permetterlo. Quindi c'è la sensibilità, c'è l'esigenza, molte aziende hanno più che cominciato a farlo, lo hanno adottato. Qui ci scontriamo però, Enrico, col fatto che tutte le volte che si modifica una procedura, una modalità di lavoro, ci scontriamo col fatto che siamo degli esseri umani e quindi normalmente siamo molto più resistenti delle macchine a modificare i nostri comportamenti. Che è uno dei motivi per cui verremo sostituiti dalle macchine. Mi auguro di no. Però il rischio è forte, sì. E quindi quello che succede, o meno quello che vedo io, è che le aziende tendono giustamente a procedere per gradi e quindi prendere processo per processo e modificare e passare in document management processo per processo in maniera da gradualmente abituare le persone, modificare il loro modo di lavorare, perché altrimenti approcciandolo a tutto tondo c'è veramente la possibilità, sì, di non procedere perché si trova troppa resistenza. Quindi una cosa che voi notate, e forse non stiamo dicendo una novità, è che la resistenza al cambiamento è molto molto molto forte e invece bisognerebbe cercare di combatterla e cambiare anche molto velocemente. Grazie a Tino Canegrati per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie. È tutto per questa puntata di 2024. Torniamo con la nostra mini replica domenica alle 13.30. Trovate tutto tra poco nella nostra versione podcast, oppure torniamo la prossima settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, tra poco ci sono le notizie di GR24. Vi auguro una buona serata con i nostri programmi.